Corleone cos'era? Vabbè, lasciamo stare, dai, già. Poi me le guardo, anch'io ho messo via tutto, adesso il 2 gennaio voglio vedere quando toglieranno il cassonetto, se lo tolgono davvero. Magari molta gente che ancora non si è premurita può buttare la mondezza e non trova i cassonetti. Bene, se inizia dalle 2 lungo la notte noi dobbiamo buttare la mondezza, perché bisogna buttare un giorno prima, lo sapete. Comunque la marrone è per l'umido, va. Ehi, ripeti ancora. Ho detto che siamo schiaffi. Non va bene questa storia. E poi ci sono i numeri di codice. Se tu butti, per dire, le lattine insieme alla plastica, ti mettono la multa. Le lattine e la plastica vogliono separate, perché ho chiamato io al comune, c'è scritto lattine e plastica, però vogliono separate. E non vuol travagliare più nessuno, anche su cazzo, sempre meno gente prendono a lavorare, poi è sempre manco travaglio. Ah, poi ho letto una cosa sul libretto informativo, allora le deiezioni degli animali andrebbero messe nell'umido, però senza le bustine, quelle verdoline che usi in strada per raccogliere da terra. Ce le devi pure togliere la bustina. E io mi domando, ma i gatti che hanno la loro sabbietta, ci devo buttare tutto nel generico o devo pure pigliare i guanti, togliere le cacche, mettere nell'umido? Vabbè, questa cosa diventa un lavoro alla fine. Poi devi lavare bene tutti i contenitori delle lattine, roba del genere. Poi, che ne so, le vaschette dei gatti, come si chiamano, i patè, non è che devi lavare bene col sapone pure quelle? Cioè, alla fine vado a lavorare direttamente all'entezza urbana, faccio prima. Sì, ma infatti ci sono anche dei dubbi, capito, sulle cose. Per dire, io ti ripeto, io uso la carta per mettere sotto le gambe e i pappagalli fanno la cacca, cade lì sulla carta, quindi non posso mettere la carta, come si dice, nella carta, la devo mettere nel differenziato. Infatti ci sono dei chiarimenti, l'importante è non sbagliare, perché ci sono dei divieti, dice, si raccomanda proprio, è scritto in rosso, di non buttare tali cose in tali posti. Da. Con l'umido un po' mi devo arrangiare, perché anche mamma è casinista, quando mangia frutta ci butta le bucce nel generico e quindi devo stare io a togliere, a separare la roba, cioè secondo me saranno anche più fiscali. Non lo so, servirà a fare multe questa roba che si sono inventati. Abbassiamoci i pantaloni, cioè se muri burro che sa niente, cioè gente che deve essere pagata lì a lavorare, cioè per fare questo mestiere non ci sarà più, dobbiamo farglielo noi, sempre meno lavoro, perché prima c'erano anche questi che facevano la differenziata, c'erano. Ci saranno sempre meno persone che travagliano. Su WhatsApp mia figlia e sono uno blu, uno marrone e uno verde, quei tre mastelli mi hanno dato solamente. Invece per la plastica e la carta non ci sono i mastelli, ma direttamente nelle buste. La carta l'ho messa in cartoni, non buste di plastica. Mi hanno dato anche le buste per la plastica, già. Sì, la plastica sì, ma la carta va messa nei cartoni. Ti chiedi un cartone vuoto, doveva fare la spesa e ce la metti lì tagliata, la carta e il cartone. Ah, ok, sarà così. In questi giorni poi, quando scendo giù in garage, vedo il colore esatto delle buste. I cosi mattelli sono sicuro che uno blu, uno marrone e uno verde. Capito, quei tre. E poi le buste sono dentro, capito? E quindi adesso non sono su a casa e quindi non ce li ho. Però prima o poi toglieranno tutti i cassonetti qua in questa zona. Adesso ci sono qua giù nella piazzetta, per cui io non è che faccio poi tutta questa spazzatura, capito? Di plastica ne faccio poco e niente. Quindi a riempire una busta ci impiego 2 settimane, se non di più, capito? Carta, idem, ne faccio poca. umido perché mangi la frutta, tutti i residui, penso anche il caffè, tutte quelle cose lì, i filtri del caffè, tutta quella roba lì va nell'umido, capito? Avanti di pasta, insomma, tutte quelle cosettine lì. Adesso vediamo i cittadini sassaresi come si comportano. Oggi ho sentito a Rai 3 regionale quello che diceva Marco, appunto, che stanno piazzando altre telecamere nuove. C'era il comandante della municipale Serra che lo diceva, hanno fatto discorsi verbali a tante persone e quindi si stanno incattivendo bene con questa situazione. Ma sta bruciando a vire, ma sta pigliando a colpi di roccio, però non è buono più telecamere. Ok, dai, ci sentiamo, io sono arrivato, sono a Sant'Orso, ciao. Tanto. E le uova, le cose delle uova, delle cose, la buccia delle luvacche, questa roba qua. Penso che era tutta nell'umido quella roba. No, non penso, perché non è roba, non è umido quello. È secco, le cose sono di materiale duro, anche i gusci delle uova, eccetera. Confermo, umido, tutto gusci di crostacei, uova, bucce anche di coso, sai, noci, nocciole, ho letto sul manualetto. Già, ti ho mandato il calendarietto, se vuoi ti mando le pagine essenziali che ti dice cosa buttare, dove buttarlo. L'ho fotografato stamattina. Allora, le buste sono gialle per la plastica, quelle che mi hanno dato a me, verdoline chiare biodegradabili per l'umido e poi marroni per quell'altra cosa lì adesso. Però buste blu per il vetro l'ho non visto. Per il vetro non ho capito se devi mettere il vetro direttamente nel mastello o comunque una busta generica. Devo vedere, dai, vai Carlo. Solo le bottiglie devi mettere e basta. Sì Marco, forse il blu non c'è, magari ho sbagliato io, perché per di blu mi hanno dato il mastello per il vetro, capito? Quindi immagino che metti direttamente le bottiglie che vanno un po' pulite, capito? Se per esempio usi le bottiglie della passata di pomodoro, gli devi dare una sciacquatina, togliere il tappo, e il tappo penso che vada insieme alla plastica, anche se di metallo, ma all'interno è in plastica e quindi credo che vada lì. Sì, confermo, i tappi nella plastica, i tappi dei vasetti di vetro nella plastica. Comunque, sai cos'è? Allora, noi facciamo abbastanza plastica, per dire, poco vetro, molto poco a dire il vero, però generico ne facciamo un bel, anche per, adesso vabbè non sto a dirlo qua, ma mamma anziana, avrete capito, no? Certe volte ci vuole... Caspita, io ogni 3 giorni butto un bustone, ma un bustone grande di roba, tra la roba dei gatti, il generico e quell'altra roba lì, e questo mastellino del generico è ridicolo, e raccolgono una volta alla settimana, il giovedì, quindi mercoledì notte bisogna mettere, mi pare dalle 8 a mezzanotte il mastellino fuori, e loro il giovedì notte, a partire dalla notte o la mattina presto, lo ritirano. Ma è ridicolo il mastello del generico, secondo me avrebbero fatto meglio a farlo grande quanto quello del vetro, e non basta nemmeno. Ok, vai Gianni. Marco, allora siccome io ce li ho, quando ho ritirato le buste mi hanno dato anche il calendario, tutto ce li ho, Marco, ti ringrazio lo stesso, ma ce li ho. Però per quanto riguarda gli anziani, hanno detto che se è poca roba va bene, se no bisogna pagare una ditta specializzata che ritira la roba per gli anziani. Sì, ho letto. Allora c'è un numero da chiamare per un ritiro aggiuntivo, però appunto non ho capito se ha pagamento ulteriore, cioè, ma noi i rifiuti li paghiamo già. adesso. Cioè, prima buttavamo lo stesso quantitativo, però pagavamo la tari e basta. Se cominci a pagare roba aggiuntiva per ogni cosa aggiuntiva, vedrai come ci trombano, trombano per bene. Marco, noi paghiamo 10 euro in più per la bacica sull'Inti. C'è una ditta che il giorno che, per dire, non mettiamo differenziato, lava le cassonette delle differenziate, il giorno che lo mettiamo l'umido, lavano quelli dell'umido, per quello devi rispettare il calendario, perché se passa il camion per lavare i cassonetti, se non trova vulti non li può lavare, quindi devi rispettare il calendario. Ma da noi è diverso, se ce li lavano. Ah Gianni, trovato allora, vabbè, avete capito di cosa si parla, panolini, pannoloni, no? Dice, allora, poi in aggiunta al normale servizio di raccolta, le famiglie che si trovano in difficoltà per la quantità, no? Dovendo smaltire un notevole numero di pannolini, pannoloni, possono usufruire di un ritiro aggiuntivo gratuito, dedicato, c'è l'indirizzo email, eccetera, beh, almeno è gratuito, là. Cioè non è gratuito, è già pagato la tari. Vai Carlo. Meno male. Gianni, scusa Marco, voglio chiedere una cosa a Gianni, ma i 10 euro che pagate in più sono al mese oppure non lo so, dimmi tu. Al mese, uno stipendio li dobbiamo dare, capito? Al mese li dobbiamo pagare, 10 euro al mese. E praticamente loro vengono e lavano i cassonetti, almeno non abbiamo quella quell'incombenza di lavarli noi, perché a me mi darebbe molto fastidio, a meno che metti una pompa in cortile, li lavo in cortile, me li danno a me 10 euro alla testa. Ti vai di là. E comunque 10 euro al mese sono 120 euro, 120 euro l'anno in più dell'Atari. E poi non sono 10 euro, 10 euro, sono 10 euro e 70, qualcosa del genere, qualcosa in più. Vabbè, comunque è così. E molta gente si è lamentata, ha detto che loro pagano già la tari e che non dovevano pagare. Questi signori, quelli so che sono un po' ignoranti, c'è stato questo, io pago già la tari, non voglio di pagare su. Bene, bene, a un'altra fammi pagare. Ci sono persone che capiscono, persone che non lo capiscono, e ci sono persone che capiscono e fanno finta di non capire perché non vogliono pagare. Purtroppo è così. E adesso ne vedremo delle belle. Ne vedremo delle belle davvero. Uiaia. Comunque Marco, meno male che c'è il servizio aggiuntivo per le questioni di chi è malato e magari produce panni eccetera da smaltire. Almeno è gratuito, meno male, almeno quello. Ehi, sì. Cioè non è che facciamo quantità industriali, però magari in certe famiglie che c'hai, mamma non è allettata, mamma già cammina con l'ambulatore, esce con me. Però chi ha per esempio un anziano allettato che almeno due volte al giorno deve cambiare proprio il pannolone completo, traverse, letto, quello che è, allora comincia a diventare impegnativo come volume. Va bene, vediamo come va, voglio sentire i commenti di tutti poi. Le bestemmie, le invettive, eccetera. Io metto il libretto davanti, ogni volta devo buttare una cosa che ho dei dubbi, controllo il libretto e non sbaglio. Faccio così, ho già deciso. E io lo stesso, ce l'ho qua in cucina, capito? Ogni tanto ci butto l'occhio e se c'è qualcosa che dimentico la guardo lì, almeno all'inizio. Poi già impariamo tutto e quindi non ci sarà bisogno neanche di consultarlo più. È giusto all'inizio che magari non ti ricordi cosa va in un cassonetto, cosa va nell'altro, cosa ci va nelle buste, come va messo. Adesso vediamo poi la quantità di mantelli che ci saranno nelle strade e ci vorrà anche più personale per la raccolta di tutti questi mantelli, capito? Ma non penso, perché il personale che raccoglierà i cassonetti voglio vedere, dovranno cambiare anche i camion, perché ci sono quei camion automatizzati che raccolgono i cassonetti, quelli grandi. E quelli lì che cosa fanno? Quelli che c'hanno la telecamera dentro, che ci sono l'autista. esatto, e boh, adesso vediamo cosa ne esce fuori, ma va bene, giovani, siccome sono quasi le 8 e ci sono anche le partite, quindi adesso me ne vado un po' ai fornelli a prepararmi la cena e poi domani mattina, per fortuna, non ho il turno presto, quello delle 5, ma entro alle 6. Comunque presto, e come finisce la partita me ne vado a dormire. Giocano tutte quante quelle che sono in Champions, l'Inter, la Juve, il Milan, l'Atalanta e il Napoli, tutte stasera, tutte alle 21. Quindi ti fai un cocktail? No, ne guardo una, mi guardo la Juve e basta, poi le altre seguirò i risultati col cellulare. Vabbè, stai andando via, buona carica quando la fai e buona continuazione di serata. Ciao Carlo. Ciao Gianni, ciao Marco, dai, ci sentiamo domani. Buona serata a tutti, anche quelli che sono in ascolto. Ciao Carlo, dai, a domani, buon proseguimento, buon tutto. Ok. Marco, fra poco vado via anche, devo portare il cane, ancora una quarta d'ora che te si sono giubito. Perché l'ho portato dopo un pranzo, voleva scendere, c'era qualche cane in calore, ho sentito ho detto ma deve essere che deve fare i bisogni, sono portato giù e invece è stato 3 ore fiaccato, diventava pazzo, andava da una parte all'altra, volando, qualche cane ha capito. Poveretto, il cane avrebbe diritto anche lui di spruzzare ogni tanto, anche per far lavorare tutti gli organi in modo corretto, no? Vabbè, però una volta che stavo parlando con questa ragazza che aveva un cocker di vicino a Piazza d'Italia, Piazza Castello, e mi ha detto che è bello, mi piace vantaggio, è bello anche il cocker. Sì, è bello, ma io preferisco il tuo, è più bello. E vabbè, stavo parlando, quanti mesi c'ha, eccetera, eccetera. Dopo il atteso e salta la cocchina. Oh, te l'ho già filata lì. No, che il cucciolino li posso tenere. Ho fatto interprete patrulli, io dico che mi sta mandando in oramma. Chissà cosa ne usciva fuori, ma io mi sono chiesto sempre già, meno male le razze di cani si possono incrociare, ma se un chihuahua riuscisse a copulare, diciamo, con un San Bernardo, no? Insomma, il seme arrivasse al posto giusto, ne uscirebbe qualcosa fuori, cosa ne esce? Un chihuahua di 50 kg o un San Bernardo in miniatura? Boh. Auguriamoci che la femmina sia il San Bernardo, perché se poi la femmina è chihuahua e nasce grosso come San Bernardo, dico che la grippa. Vabbè, questo naturalmente detto scherzando, no, però uscirebbe fuori una cosa, insomma, un po' strana, è che il chihuahua, sai, è basso, non ci arriva ai cani alti, capito? Ma che poi molte razze moderne sono incroci, appunto, anche forzati un pochino di cani che in natura non esisterebbero, mi pare. E magari qualcuno soffre anche di patologie, sai, mi pare che sempre il Carlino sia delicato anche come cane, è presente? Sì, anche, come si chiama, lo Sharpei, però quello americano, quello che ha tutte le pieghe con l'uso grosso, quello lì, dalle pieghe bisogna passare una pomata che costa un sacco di soldi, ma l'ha detto il mio veterinario, non comprare quello, perché sono andato a chiedere così al veterinario quando lo dovevo prendere, e mi ha detto prendi quello cinese, quello lì è la razza base e non dà problemi, invece questo qua americano che l'hanno incrociato col ciucciù, quello dà un sacco di problemi e c'è anche la displasia dell'anca e un sacco di roba. Sì, ho visto delle varianti del ciò, perché anche lì ci sono delle varianti che hanno mille pieghe, è una cosa allucinante. Guarda che fare manutenzione alla pelle di quel cane deve essere una cosa veramente impegnativa. Va bene, oggi ero con l'antenna diretta già. col 7009, antenna diretta e i suoi 10 watt, mi segna meno perché lo Smith, perché l'antenna è bagnata, quindi c'hai magari 1,3 di SVR quando è bagnata, poi appena si asciuga sparisce, però dovrebbe avere 10-12 watt questo apparato, però ripeto non me li segna. Vabbè, io ho un E1 di stazionaria Marco, con 10 watt, 9 watt, dai, non 10 non li dà, perché l'ho abbassato per usarlo con lineare, no? Per usarlo con lineare alla manetta ho abbassato il watt e l'ho messo al centro, di modo che la radio sia perfetta. No, qua appena appena lo fa, che poi avendo l'antenna diretta, questo è il rosmetro dell'apparato, no? Che in realtà non è assolutamente affidabile, però meglio sempre che segni di più, per esempio anche quando non ce n'è, quando proprio l'antenna è asciutta segna sempre 1,2, no? Se si accende la prima attacca, capito? Va bene. Che altro dire, già mi sa che chiudiamo, perché qua c'è sempre molto più freddo delle altre camere, con questi spifferi per colpa dei cavi. Poi sentiamo domani con calma o quando capita. Così mi organizzo anche io a cena, eccetera, eccetera. Va bene, ciao Gianni, buona serata, buona passeggiata. Ci sentiamo. Ciao Marco. No, io il cavo gli ho fatto un buco nel legno della porta finestra, l'ho fatto passare lì, poi tutto attorno c'è questo silicone bianco, non si vede nulla, perché la finestra è bianca, capito? Si vede niente. Uomini, andate a mangiare. Tu non entra sempre alla fine. Già, io nel fornelli, poi impegnato. C'è il cocktail, c'è l'imbarazzo della scelta oggi delle partite, va bene, stavo scherzando, andare, buona serata a tutti, allora io devo portare giù il cane a mia malavoglia perché sta piovendo e è un po' brutto quando piove portarlo giù, va bene. Ci sentiamo, buona serata a tutti, ciao Marco, ciao Claudio, ciao a tutti gli altri amici che sono all'ascolto, cuoriti per me. Già, copriti che c'è qua il gelo. Sì, mi devo portare anche quell'ombrello, quello che avevo vinto con i punti alla ESO. Cazzo, mo che mano, 3 persone ci stanno, un bel ombrello. Già la conosco, no, ma soprattutto mettiti una cuffietta e copriti bene che c'è il freddo col tuo cognome. I giorni della merla sono. Esatto, bravo. Cavagano. Va bene, grazie per il consiglio, dai. Ce l'avrò attrezzatura alla pesca perché io le cuffie non le uso mai, perché mi fanno pulita la testa. E non le sopporto, metto sempre il cappuccio del giubbotto che pesa 3 quintali, il giubbotto vecchio di quelli da neve, e va benissimo, anche troppo grande quel cappuccio, non si vede nulla davanti quando te lo vedi. Lo stesso problema abbiamo, io ce li ho belle, ma solo non riesco a tenerle, mi fa pulito la testa, uso il cappellino che non me ne fa pulito, però copriti, davvero non sto scherzando perché sono uscito a più gli sportelloni, guarda, c'è da cagarsi sotto, sono 3 gradi qua. Poi ragazzi, allora, buona cena a tutti, ciao anche a Marco, sentite se andate a preparare la cena, Gianni e tutta la greffa, ciao a tutti, sono entrato in ritardo ma giusto per un saluto, ciao a tutti. Ciao a te, grazie per il pensiero, buona serata. Ciao Claudio, grazie di essere entrato a salutare, ci sentiamo. Modulazione mia, tutto a posto, come al tuo orecchio? Ma grande, tu fai sempre bene, non c'è problema, hai sempre dei buoni abbinamenti, sia con i normali che con gli amplificati. Io finalmente ne ho tolto piri, ho questo 60, sembra che stia andando alla grande. Ok, per la cronaca, KPO Palmare su CRT 7009, va bene, il microfono è anche a manetta, quindi, ok, va bene, buona cena a tutti e ci sentiamo, ciao. Ciao ragazzi, buona cena a tutti voi. Ciao.